questo è un cano, no, Tito, tu sei un cane, questo è un canone, e anche Drago è abbastanza un cane.